be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you. Trentunesima puntata di Coccoli al Silicio, ne ho saltate ben due, questa dovrebbe essere la mia 33esima, se io fossi preciso, ma non lo sono, ho saltato ben due settimane, ma ora sono tornato ai microfoni di Radio Wombat con la rubrichetta di cose tecnologiche informaticose. In queste settimane in cui la vita mi ha sopraffatto, in realtà si sono accumulate diverse cose. Do però la precedenza in questa puntata agli eventi, alla sponsorizzazione degli eventi prossimi, diciamo del giro a Caroso, almeno quello che frequento io, che si terranno nel mese di novembre e poi in quello di dicembre. Ne ho infatti ben tre da segnalare. Il primo è alla fine di questa settimana, 9-10 novembre, a DXM24 a Bologna, si terrà la quarta edizione di Ecordai, che è una convention sullo stile Hack Meeting. Si inizia venerdì alle 18:30. Ora proverò a delinearvi un po' cosa andrete a trovare, per quanto il sito ci permetta di fare. Ora l'hanno già messo a posto parecchio, fino a qualche giorno fa c'erano gli orari ma non i giorni, quindi si intuiva che ci sarebbero state delle cose e non si sapeva bene ancora quando. Ora ci sono addirittura i giorni e anche gli orari, anche se alcuni a me mi sembrano un po' improbabili, ma vediamo un attimino. Allora, alle 18:30 si apre con un seminario dal titolo Static Websites as a Service, ed è sostanzialmente, non ve lo leggo tutto l'abstract perché è abbastanza lungotto, ma io l'ho letto, si tratta sostanzialmente di un seminario su sistemi comodi per generare siti statici. I siti statici, per chi non ne capisse la necessità, in realtà sono comodi perché sono più veloci, non hanno problemi di interazione con database o strutture dinamiche che poi li rendono anche meno sicuri e più noiosi da tenere aggiornati dal punto di vista della sicurezza, e quindi sono abbastanza una buona pratica. Se volete sentire un po' questo che si è inventato colui che tiene il seminario, insomma, dovete andare presto a Bologna perché si apre con questo qui. 45 minuti dopo teorici ci sarà Mastodon lato tecnico. Mastodon è una roba che abbiamo presentato anche qua all'Eclab a Firenze, abbiamo potuto averli con noi. È una piattaforma, sostanzialmente una sorta di social network, sì, una specie di Twitter espanso, un po' tra il Twitter e il blog. Ecco, e questo è un seminario dedicato alla presentazione delle parti più tecnicose di come funziona il giochino. Subito dopo, alle ore 20, prima di cena, c'è la presentazione di un libro dal titolo I Social Network, penso con l'autrice, che è Giuliana Sorci. Per brevità, diciamo, non vi leggo neanche qui l'abstract. Se siete curiosi, andatevelo a cercare, poi magari vi metto un link sul blog. Segue quindi la cena. E dopo cena si rinizia la cena intorno alle 20:30, ottimisticamente si pensa di riniziare verso le 21:45 con un seminario un po' esoterico, a mio titolo è Lucmum Node.js, che parla sostanzialmente del siccome è fatto il sito che sto guardando. Credo di sì, penso che sia la spiegazione sostanzialmente su come avere un sito che abbia una grafica con effetti stile JavaScript, ma senza JavaScript, quindi soltanto usando HTML, CSS, eccetera, eccetera. Penso, anche se non sono sicuro, perché me l'avevano promesso così, che il seminario che è segnato per sabato alle ore 9 del mattino, che trattasi di Meltdown figurato, che dovrebbe essere una roba che faccio io, un teatrino, sfruttando il pubblico in sala per spiegare questo tipo di side channel attack, che dovrebbe seguire, penso, questo qui, perché così mi avevano promesso. In realtà nel programma su c'è scritto che sono alle 9 del mattino di sabato. Io però già ho scritto loro per protestare perché non c'ho voglia di farlo alle 9 del mattino di sabato. Mi sembra un orario difficile. Ecco, preferivo finire a essere il solito che inizia a mezzanotte con il ritardo accumulato da tutti gli altri e finisce intorno alle 2 del mattino di venerdì e poi chiuderla lì. Ma penso che andrà così, perché io, in quanto relatore di questo Meltdown figurato, mi rifiuto di farlo alle 9 del mattino di sabato. Ecco, sciopero. Arriviamo così dunque a sabato, non alle 9 del mattino, ma bensì alle 15:30, in cui si apre il pomeriggio con autodifesa digitale, penso un workshop abbastanza base, che spiega un po' di tecniche utili anche per chi diciamo è meno avvezzo a questi ragionamenti, all'utilizzo di questi strumenti utili a diciamo a difendersi dagli attacchi alla privacy. È bruttissima questa cosa, questa espressione attacchi alla privacy, fa un sacco ridere. Però diciamo che la quantità di informazioni che noi lasciamo online è molto grande, e capire come lasciarne di meno quando desideriamo è una cosa che qualche volta ti salva da brutte sorprese. Segue alle 4 Circolog, che è una implementazione di syslog su buffer circolare con storage in memoria, una cosa che ai più forse non dirà nulla, ma è una roba parecchio interessante in realtà, perché spesso si ha difficoltà, se si sviluppate o mettete su delle architetture, a farne poi il debug. E quindi cito dall'abstract: questo oggetto, questo circolog, serve per poter avere debug molto dettagliato senza salvare i log su disco. Perché non salvarli su disco? Perché in molte, diciamo, in molte strutture non è utile, non è indicato, diciamo, per i servizi che si danno, che spesso sono servizi magari legati all'anonimato senza log, mantenere dei log su disco, che quindi diventano sostanzialmente una violazione di quella policy che ci si era dati, e poterli tenere invece in una memoria volatile che poi non rimane è diciamo qualcosa che permette di separare i dati sensibili che non devono finire sul disco e che però nel caso di debug molto dettagliato è necessario spesso farli finire da qualche parte, da quelli invece che voglio salvare sul disco che però non saranno quelli contenenti i dati sensibili. Quindi se vi interessa tutto questo, ore 16, non vi dico puntuali ma cercate di esserlo. L'altro seminario che segue, questo qua alle 16:45, è un seminario, boh, sembra abbastanza buffo, che si chiama Computer Fobia. Questo l'abstract ve lo leggo perché un pochino merita, io non lo so spiegare probabilmente altrettanto bene. Allora, favolosi anni 80, USA. Studi psicologici riportano che circa il 20% della popolazione è ad alto rischio di sviluppare un nuovo disturbo mentale, la computer fobia. Tanto che alla fine degli anni 90 si conteranno circa 400 studi accademici sull'argomento, oltre a svariati articoli di giornale, libri e manuali. Ma in realtà questa sindrome non è mai esistita, mai entrata nei manuali diagnostici ufficiali, né legata a specifici fattori di rischio se non c'ho l'ansia in generale. Ma perché allora lo studiavano? E a noi che ce ne frega? I motivi sono tanti: guerra fredda, storia dei computers, psicologi, comunisti e capitalisti, test attitudinali, controllo sociale, rivoluzione, cyborg, narrative e narrazioni, discorsi e discorsoni, distorti e distorsioni. E tu sei computerfobico? Scoprilo con questo semplice talk. Forte. insomma, sembra una roba frizzante e interessante. E segue alle 17:30, controllo della torre GSM per paranoici presi male. Mi seguono? Mi ascoltano? Chi? Perché? Usando un semplice script e una chiavetta RTL SDR da pochi euro, è possibile rilevare quali SIM sono registrate in una determinata torre GSM. Possibili trick e utilizzi per usare questa informazione per ingrassare la nostra paranoia. Bello questo, forte. E le chiavette RTL SDR sarebbero sostanzialmente delle chiavette con un chip. Di solito sono delle chiavette fatte, in realtà delle chiavette USB, fatte per guardare la TV sostanzialmente, ma che in realtà il chip che c'hanno sopra spazia molto di più nella possibilità, diciamo, nella quantità di frequenze che può captare. E quindi già anni fa è stato sviluppato un driver e degli strumenti appositi, diciamo, per sfruttare queste potenzialità e quindi fare di una chiavetta un oggetto utile per quella che viene chiamata Software Defined Radio, che sarebbe questo acronimo SDR, cioè una radio sostanzialmente che utilizza un oggetto digitale, in questo caso la chiavetta, con un'appendice analogica chiaramente, per prendere i segnali radio e elaborarli e quindi diciamo renderli fruibili, cioè sostanzialmente uno scanner di frequenze ad ampio raggio e dal basso costo. Questo è quanto. Alle 18:15 ci dovrebbero essere i 10 minutes, ma alle 18:15 dal sito si legge anche che c'è un'altra roba. I 10 minutes sarebbero questi talk su svariati argomenti da 10 minuti. Non so, se questo è l'elenco, cioè nel senso che se questo qua 18:15, questo qua che è già segnato è un 10 minutes e per questo è messo qui, oppure se è stato un errore, non lo so. Comunque forse no, cioè forse quello che si intende è che ci sono i 10 minutes e i primi due 10 minutes saranno SSB Secure Scuttlebot. Cioè un'introduzione a Secure Scuttlebot, non un social network perché di uno ulteriore non ne sentiamo il bisogno, ma un protocollo su cui costruire applicazioni distribuite offline e peer-to-peer. Tempo di durata questo un quarto d'ora, quindi sì, tendenzialmente è un 10 minutes. A questo segue una roba che si chiama Gadgety Sound System, cioè un sistema distribuito di moduli musicali orientato alla creazione di concerti di musica elettronica. Che storia. E a seguire probabilmente ce ne saranno altri sempre da 10 minuti, credo, perché probabilmente c'è un gap, quindi o questo qua inizia alle 18:30 e finisce alle 20, oppure è un 10 minutes che dura 10 minuti, a cui ne seguono altri, alle ore 20 finiscono i 10 minutes e inizia UFO ciclisti, cioè presentazione di UFO ciclisti. Se volete sapere che cos'è, sostanzialmente, venite a vederlo a XM. Alle 20:45 esso finisce e c'è un'altra cena benefit. Poi alle 22 si riprende con penso delle cose più di intrattenimento, forse o forse no, non lo so. Comunque questo si intitola Per Aspera ad Astra. E vi leggo l'abstract, no? Sì, sì, ve lo leggo via perché sembra una roba performativa questo, ecco, sì. Con questo inflazionato motto denso, rispolvererà i saluti che i terrestri degli anni 70 hanno voluto spedire oltre il sistema solare attraverso i famosi Golden Record. E se fossimo noi ad imbatterci come alienati d'oggi su questo tentativo di contatto da parte di un'umanità oramai tecnologicamente primitiva? E se lo fossimo? Boh. 30 minuti circa di emozioni intraterrestri densamente sintetizzate da ciò che l'oggi ci offre. Densissime vibrazioni indotte acusticamente da un sintetizzatore modulare e luminosissime proiezioni indotte da un microscopio manipolato da Pure Data. Che storia. Poi alle 22:30 ci sarà il concertino COBOL Pongide, che è un duo umano-robotico formato da COBOL ed Emilino Cicala. E chi vuole, ora non vi leggo tutto il coso, cioè tutto quanto, cioè tutto l'abstract perché è molto lungo, se vi interessa sappiate che alle 22:30 potrete gioire di codesta codesta performance di questo duo umano robotico. E con questo abbiamo chiuso sostanzialmente tutto il programma di Echo Dai, che si snoda appunto tra venerdì 9 e sabato 11 e sabato 10 novembre. E quindi vi lascio a un pochino di musica. Quest'oggi ho aperto con Etta James, continuo con Etta James e poi andiamo al prossimo appuntamento, che questa volta è qui a Firenze. My dearest darling, please love me too. Within my heart, I pray your answer's yes. Per il prossimo appuntamento avrei voluto usare l'internet, ma non mi vengono in aiuto come sempre questi dell'E-Club, novello nato if duo alla polveriera. Avrei voluto dirvi, vado esclusivamente a memoria, quindi non fidatevi di me se non per le cose essenziali, che il mercoledì 7 alle ore, secondo me, 18. Si terrà in quel della polveriera la presentazione del numero, e anche qui tiro a indovinare, secondo me 45, di Zapruder, che è una rivista di storici e sociologi e antropologi, che produce dei numeri monografici un paio di volte all'anno. L'anno scorso, o forse all'inizio del 2018, non lo so di nuovo perché internet non mi aiuta, ha prodotto un numero sulla storia dell'hacking, più diciamo della parte più politicizzata, italiano. E questo numero viene appunto presentato alla polveriera, patrocinato dal novello Hack Club, If Do. Ora vi darei anche delle coordinate più internettose, ma purtroppo non mi riesce di trovare il sito. E loro non si fanno trovare in maniera semplice. Comunque la cosa dovrebbe iniziare verso le 18, seguita da una cena, seguita da in niente, credo. E se poi invece c'era qualcosa, se vi potete fermare a cena e lo scoprite. Però la presentazione c'è, e secondo me è prima di cena. Se poi venite prima di cena ed era dopo cena, starete lì con noi, vi terremo compagnia. L'altra cosa che vi volevo poi segnalare è che il mercoledì successivo, sempre in quel della polveriera, principia anche la continuazione del corso sull'informatica de base e iniziano 5 lezioni dedicate alle reti e al networking in generale. Saranno 5 densi mercoledì. Per il programma preciso preciso vi rimando al prossimo lunedì, dove sicuramente mi sarò formato meglio e l'internet sarà forse tornato ad aiutarmi, e quindi vi dico meglio. Con questa segnalazione quindi procediamo con un altro pochino di musica e poi un'ultima segnalazione di appuntamento e ancora qualche notiziola, e poi chiudo perché già mi pressano qua altra gente che sta qui alle mie spalle a fare i corvi. Let me tell you now, my heart feels happy, my feet feel light, I shake all over. put a hurting on me. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey, hey, yeah. Oh, it must be love. You know it must be love. Oh, you know it walks like love. You know it walks like love. You talk like love. You know it talks like love. E sul calare del pezzo riprendo anche a parlare. L'ultimo appuntamento che vi volevo dare è invece per dicembre, anche qui vado a memoria perché anche quest'altri non sono meglio evidentemente di quelli nostrani di Firenze, c'hanno questa cosa che non pubblicano le cose prima, te le dicono all'ultimo. Comunque là, secondo me, ora rifacendomi anche con l'aiuto dei miei potenti mezzi a un calendario del 2018, secondo me sabato venerdì 7, sabato 8 in quel di Napoli, ma più sabato 8 che venerdì 7 secondo me, anzi secondo me proprio solo sabato 8, si terrà a Napoli un'altra di queste convention tipo Accordai del giro di Hack Meeting. Questa la organizza l'E-Club che ha sede presso la mensa occupata. Non si sa ancora bene il programma, l'anno scorso era stato abbastanza interessante, anche con un gioco che pare ci sarà anche quest'anno, cioè una sorta di Capture the Flag, che sarebbe una roba dove tutti si siedono e poi c'è un server da attaccare, che però è dentro la rete, diciamo, fatta ad hoc in quel di Napoli, e ci si cimenta con questo gioco che va avanti fino a tarda notte. Quindi se siete nottambuli e volete venire fino a Napoli, questo è quello che accadrà sabato 8 in quel della mensa occupata di Napoli. Anche qui comunque ne riparlerò poi più in là per presentarlo un pochino meglio man mano che esce il programma, e come per accordare questa settimana ve lo leggo poi tutto quanto. Ora magari vi lascio ancora un po' di musichina perché mi devo preparare la prossima notiziola. Ci saranno una serie di notizie, penso, in cascata, cioè nel senso vi do delle news tutte veloci per un 10 minuti e poi mi appresto a chiudere, a salutarvi, e ci si sente lunedì prossimo. For you are mine at in love with you, and a fool that I am. For thinking you loved me too, you took my heart, then played of little coquette, and my dreams just disappeared like the smoke from a cigarette. And oh yeah, yeah, fool that I am. For hoping E su questa languida musichina, riprendo il microfono e vi racconto un po' una cosa che cui vi punto l'attenzione, ma in realtà probabilmente la sapete già perché l'hanno sparacchiata su tutti quanti i giornali, come probabilmente così era nell'intenzione degli autori. Ma Anonymous Italia è sostanzialmente tornato in attività. Hanno lanciato questa operazione 5 novembre, che è iniziata una settimana fa, e ha visto sostanzialmente sotto bersaglio tantissimi siti istituzionali, dai dati che hanno rilasciato si capisce che sono finiti nel loro mirino, diciamo il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Polizia di Stato, il CNR, poi Fratelli d'Italia, la Lega Nord del Trentino, qualche sede del Partito Democratico, cioè qualche sito del Partito Democratico locale, tipo quello di Siena. Poi cosa avevano fatto? Avevano fatto varie cose, tra cui bucato il sito del Comune di Palermo, qualcosa relativo a qualche consiglio regionale, tipo quello della Sardegna, la provincia di Arezzo, poi Sistema Sanitario Sardegna. Insomma, varie cose legate principalmente o alla ricerca o comunque sito istituzionale di qualche tipo. La campagna dovrebbe concludersi, credo, il 5 novembre, non lo so, così avevano detto sui mezzi informaticosi il loro possesso. Diciamo, è una cosa che potete seguire benissimo anche dai giornali, o se vi piace guardare le cose, potete guardare direttamente i Twitter. Che utili i tweet, sì, gli account Twitter che utilizzano per far girare le notizie, o altrimenti, se voi cercate su Google Anonymous Italia, trovate il loro blog, è la cosa più facile. E quindi niente, se siete interessati a seguire le loro gesta, dateci un'occhiata, anche se già abbastanza appunto i giornali le seguono tutte, e non, cioè uno non c'è neanche il gusto di andare a trovare qualcosa che non sarebbe difficile trovare, sta lì. È facile. E con questa, diciamo, notizia quasi doverosa, visto che si parla di queste cose, era dovere di cronaca riportarlo. E vi faccio ancora un po' di musichina e poi qualche notizia dal mondo invece più diciamo, dell'hacking internazionale, con qualche notizia bellina su delle nuove vulnerabilità uscite questa settimana che sono abbastanza ghiotte. Sempre Etta James ci accompagna in questa puntata sugli intermezzi musicali, abbastanza brevi appunto perché oggi sono un pochino di furia. E quello di cui vi volevo raccontare ora è che è uscita qualche giorno fa, non credo più di un paio, la notizia che ha interessato solo gli addetti ai lavori, ma mi ha interessato abbastanza, che sono state scoperte dei nuovi sidechain nell'attack su alcune CPU, in particolare Intel. Per capirsi, i sidechain nell'attack sono una cosa di cui abbiamo già parlato abbastanza e sono quella classe di attacchi a cui ad esempio appartengono anche Meltdown, Spectre, TL Bleed oppure For Shadow, sì, sono gli ultimi usciti quest'anno. Sono una classe di attacchi abbastanza insidiosa perché appunto risiedono in una parte che non è il software ma è l'hardware, e cambiare l'hardware è molto più difficile cambiare il software, quindi sono attacchi che te li porti dietro sostanzialmente, cioè le CPU che ce l'hanno continueranno ad averceli. Vengono prese alcuni escamotage diciamo tecnici che spesso però si riducono appunto come in questo caso nel disabilitare delle future, e quindi la cosa buffa è che per questa classe di attacchi molto spesso la soluzione comporta il fatto che il tuo processore va poi un sacco più lento. Quindi tu hai comprato l'i7 e poi o l'i9 o che cavolo hai comprato te, e poi ti trovi a dover mettere in atto delle contromisure che di fatto te lo rendono più lento, e allora te lo dovrebbero far pagare di meno secondo me pure. E comunque, il nuovo attacco, che è stato chiamato in codice Port Smash, sostanzialmente riguarda appunto una parte dell'infrastruttura di questi processori chiamata Simultaneous Multithreading, SMT, che serve appunto a rendere più performante il processore. Se non che, già quest'estate diciamo, erano usciti delle chiamate, sì, delle chiamate. Erano usciti degli avvisi, degli appelli, ecco, di alcuni personaggi del mondo dell'information security, anche di un certo peso, almeno così si presentano. Tipo, ad esempio, c'era il creatore di OpenBSD che già quest'estate diceva: guardate, secondo me è necessario disabilitare completamente questa future su tutti i processori perché è fatta male. È fatta male nel senso che sostanzialmente fa quello che a livello di microarchitettura fanno anche gli altri attacchi, cioè a livello basso, qualsiasi forma di controllo di privilegi e permessi su chi può fare cosa scompare in nome appunto della velocità di esecuzione. E quindi a quel livello è possibile, ad esempio, leggere cosa sta facendo un altro programma, e nel caso presentato come proof of concept di questo attacco, ad esempio, era possibile leggere password o chiavi che venivano diciamo utilizzate insieme alla libreria OpenSSL, che è sostanzialmente quella che sta alla base della maggior parte dei servizi crittografici che utilizziamo nei nostri computer e nel in, in, cioè sta alla base di moltissimi software, e quindi diciamo che potendo attaccare quella parte si compromette sostanzialmente, almeno in teoria, gran parte della sicurezza di questi algoritmi crittografici, e di conseguenza se ne va un po' tutto, cioè tutto questo mondo super cifrato che costruiamo se ne va un pochino ai maiali. E inoltre, se anche non ci sono questo tipo di dati, è comunque interessante il fatto che le microarchitetture a livello base non distinguono più tra i dati a cui un processo può accedere e un altro no. Quindi io su una macchina che utilizza queste future sostanzialmente accedo a qualsiasi cosa. Ora, se questo fosse il problema sul mio computer, direi anche chi se ne frega. E infatti io faccio così, nel senso che tutte queste future che sono comode, ma che diciamo, dovrebbero essere, non sono sicure, e devono essere in qualche modo patchate dal software che però poi mi rallenta la macchina, io le salto. Cioè, se devo dire al mio computer, diciamo, funziona con la nuova patch che ti però rallenta del 30% il computer, gli dico: vabbè, pace, fine, voglio andare il 30% più veloce, e quindi pazienza. Poi Però nel mondo cloud che stiamo, diciamo che ci vogliono vendere, per cui tanta gente utilizza computer da remoto che non gli appartengono sostanzialmente, questo diventa un problema, perché allora io in linea teorica, siccome sulla la macchina su cui io magari sto in qualche modo lavorando e la condivido con tantissime altre persone, ecco che allora questa cosa qua diventa molto più complicata, perché allora a essere problema non sarà più solo il mio computer, che alla fine chi se ne frega, ma sono quelle macchine che poi mi vendono per fornirmi i miei servizi, che poi anche quelli mi vendono, insomma ti vendono un sacco di cose e poi non è che funzionino così bene. Questa mi piaceva un sacco a me perché rientra appunto in una classe di attacchi che mi ci sono intrippato tanto ultimamente e infatti questo venerdì per farmi la sponsorizzazione a Bologna in quel di Accordai, come dicevo prima, faccio appunto un teatrino per spiegare uno di questi attacchi che si chiama Meltdown e diciamo pertiene alla famiglia alla quale appartiene pure sto Port Smash di cui ho cercato di parlarvi or ora. Ora, un altro po' di musica che ho parlato tantissimo, poi ho solo più una notizia, prometto l'ultima e poi me ne vado via. Ultima notizia, in realtà non dal mondo totalmente acaroso, ma anche dal mondo dell'economia, perché per capire il nostro mondo schifo, di solito è buona cosa seguire dove finiscono i soldi. E dove sono finiti i soldi in questo caso è molto chiaro, nel senso che l'IBM ha comprato, la Red Hat. E non è che era una novità la collaborazione tra i due, ma il fatto che ora l'IBM abbia comprato la Red Hat fa sì che l'IBM si candida a essere un discreto colosso nel mondo del cloud computing, che è appunto quello di cui vi ho parlato anche prima in riferimento all'attacco Port Smash. E questa è una notizia di queste settimane, non è proprio nuovissima, però mi è interessato appunto perché è interessante capire chi investe cosa e dove. Questa, diciamo, acquisizione non è ancora stata completata, sarà completata probabilmente nella seconda metà del 2019, quindi si andranno a definire meglio i termini. Pare comunque che la Red Hat manterrà una sua certa autonomia con un proprio diciamo organigramma aziendale staccato dall'IBM, però di fatto i soldi salteranno fuori da lì e quindi è abbastanza interessante capire perché sostanzialmente anche nel mondo del software cosiddetto open source che noi tutti volenti o nolenti ormai utilizziamo chi più entusiasta e chi più vabbè lo uso sempre meglio che usa Microsoft, però tendenzialmente diciamo che questo mondo è sempre più permeato da grossi investimenti aziendali. In qualche modo significa che da qualche parte le cose, cioè si andrà nella direzione in cui questi grossi investimenti aziendali in qualche modo ci faranno andare, dobbiamo esserne quantomeno coscienti, ecco, quantomeno coscienti. È comunque un'acquisizione, quest'anno ce ne sono state diverse, non so se ve lo ricordate, ma la Microsoft si è comprata GitHub, che non è poco, cioè sono due. Diciamo, sono due grosse componenti del mondo open source che finiscono in mano, una alla Microsoft e l'altra all'IBM. E tant'è con questa bella notiziola, diciamo, che poi non è bella né brutta, cioè chi se ne frega, però è importante per capire appunto come va il mondo. E chiudo questa puntata, vi do appuntamento al prossimo lunedì. Alle ore 9 e 30. Vi ricordo ancora XM24 Accordai 9-10 novembre, venerdì e sabato questo, se non avete niente da fare. fare, insomma, volete fare un salto, sarà senz'altro interessante, ecco. Ciao a tutte e a tutti e ci sentiamo prossimo lunedì. Boy of my dreams, I love you. Oh, honest, I do. Don't you know that you